Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. "24 mattino" di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 18 minuti e 37 secondi inizia questa terza parte di 24 mattino di martedì 7 luglio. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria, eccoci. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Come sempre, rapido passaggio sulle prime pagine di due quotidiani. Vediamo che mentre in Gran Bretagna sia il Guardian che il Daily Telegraph mettono in luce il rischio che ci possano essere disordini legati al fatto che si sta pensando di liberalizzare in qualche modo la vendita di alcolici, di allungare gli orari di apertura dei pub, e tutto questo ovviamente per dare un po' di diciamo energia al settore della ristorazione e al turismo, ma molti ministri avvertono così anche un po' di alcol ai cittadini britannici che, insomma, che però il rischio di disordini proprio legati a un consumo di alcol eccessivo c'è, e viene messo in guardia il governo su questo. Mentre tutt'altro stile sulla prima pagina delle Figaro, perché qui si è cambiato scenario. In 3 ore, lo dicevamo ieri, Macron ha cambiato il governo ed è un governo decisamente più a destra, perché molti dei nuovi ministri provengono proprio dalle file del partito moderato, del partito di Sarkozy e di François Fillon. Così lo sono un po' tutti, diciamo, dal ministro dell'economia Bruno Le Maire, che è il ministro che è stato anche candidato per le primarie della destra, al ministro dell'istruzione e anche alla nuova ministra della cultura, che è stata cambiata e che era una fedele di François Fillon. Insomma, diciamola tutta, questo nuovo governo di Macron, che per le Figaro è un governo regale che non deve fare ombra al re, sterza a destra, nonostante alle amministrative il partito che è andato meglio sia un partito non di destra, quello dei Verdi, certo. Vedremo che decisioni prenderà questo nuovo esecutivo francese, che segnala la partenza dell'ex premier Edouard Philippe, molto popolare in Francia, e qualcuno dice pronto a diventare invece il candidato alle presidenziali proprio per il centrodestra. Vedremo un po', seguiremo le evoluzioni di questo paese a noi confinante, così importante in Europa. Però veniamo alle vicende nostre adesso, che sono quelle che riguardano la lunga gestazione e finalmente nella notte il parto del decreto semplificazioni. Salvo intese, come ci ha detto ieri Graziano Del Rio, ce l'aveva anticipato, ha detto sarà approvato salvo intese. E vediamo di capire un po'. Ovviamente gran parte dei dettagli erano già noti nelle scorse ore. Vedremo un po' di commentarlo, di capire qualcosa di più, di capire se effettivamente servirà a qualcosa. Lo facciamo con Sabino Cassese, che è docente alla School of Government della LUISS, è stato ministro della funzione pubblica nel governo Ciampi e giudice costituzionale. Professor Cassese, bentornato ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno. Eccoci qua. Maria, buongiorno. Prego, inizia tu, vai. Sì. Bene, professore, vorrei chiederle subito un commento a caldo sul decreto che è stato licenziato questa notte. Si ricordava salvo intese, questo per quanto riguarda alcuni dettagli tecnici, ma la cosa sostanziale è che dopo aspre battaglie non ancora del tutto evaporate, il governo ha trovato un accordo. Le chiedo che cosa la convince e che cosa la convince di meno. Intanto chiediamoci se sia nato oppure no, Noi sappiamo che il Consiglio dei Ministri è convocato per le 21.30 di ieri e è cominciato alle 23 e sappiamo dal comunicato stampa che è stato preparato dopo le 4.10 di questa notte, quella appena passata, che è terminato appunto alle 4.10. Io ho un testo che era stato preparato alle ore 19 di ieri e devo ritenere che sia il medesimo che è stato approvato, anche se il capogruppo del PD e della Camera ha dichiarato, e la cosa è riportata sul Corriere della Sera di stamattina, i ministeri dovranno dare poi il loro via libera. Questa frase la cito testualmente per dire che sostanzialmente non sappiamo se è nato o non è nato e se dobbiamo credere al testo diciamo che era quello con ora di ieri 6 luglio ore 19, questo è un testo di 96 pagine, di 48 articoli, nel quale sostanzialmente, questo è il mio giudizio, si cerca di fare il meno possibile sul maggior numero di materie e quel poco di farlo male. Quindi siamo in presenza Il suo è un giudizio negativo, professore? Beh, le pare che quello che ho detto sia un giudizio positivo. È sostanzialmente una legge omnibus. Le faccio un esempio. C'è un articolo 14 ter che riguarda una materia che mi sta a cuore, l'università, riguarda le scuole superiori, ad ordinamento speciale, tutta una serie di provvedimenti ragionevoli. La sola domanda che io porrei è: ma che relazione ha con la semplificazione? Non è uno di quei, come diceva il presidente Cossiga, quei vagoncini che vengono aggiunti a un treno solo perché è il treno che sta passando e che così si spera che questi vagoncini vadano in porto, arrivino alla stazione ferroviaria? Ecco, io quindi do un giudizio sostanzialmente negativo. Voglio aggiungere una cosa che è importante. Noi abbiamo un governo e nel governo c'è il ministro per la pubblica amministrazione. Ora, il ministro per la pubblica amministrazione ha al suo interno, il ministero, un ufficio, se non ricordo male, di livello dipartimentale, quindi con un dirigente generale di livello superiore, che si chiama per la semplificazione e la sburocratizzazione, che a sua volta è organizzato in tre servizi per la semplificazione delle relazioni con i cittadini, lo smaltimento delle procedure e per il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di semplificazione. Ha prodotto un patto per la semplificazione, un'agenda per la semplificazione, delle decertificazioni, un progetto di misurazione degli oneri, un progetto per semplificare ascoltando e così via. La domanda è: ma quanto di questo patrimonio di idee è stato travasato nel testo che è stato approvato stanotte in Consiglio dei Ministri? Però, professor Cassese, ci sembra di poter dire, no, che è un po' come la famosa spending review, cioè che arriva e poi viene messa in un cassetto e viene pescato altro. Ascolti, però c'è un'idea di sveltimento degli appalti pubblici che, come idea in sé, poi mi dirà lei come vede la realizzazione. Le faccio subito una domanda: ma se si vuole sveltire, come lei dice, perché si sveltisce soltanto fino al 31 luglio del 2021? Le norme in materia di contratti pubblici iniziano dicendo: queste norme riguardano i contratti fino al 31 luglio 2021. Allora, noi siamo alla metà di luglio del 2020. Questo è un decreto legge. ci vorrà del tempo perché venga firmato dal Presidente della Repubblica, che venga poi convertito in legge. Certamente nessun amministratore pubblico oserà mettersi al lavoro sul decreto se non viene convertito. La conversione può avvenire nel giro di 2 mesi. Verosimilmente questo testo sarà convertito, partirà come legge convertita in settembre. Sì. Allora, domanda è: come semplifichiamo da settembre? L'amministrazione a quel punto lì deve mettere in atto tutte le nuove procedure, cioè se le deve studiare, deve accertare come farle, questi atti che sono stati adottati, il decreto legge e la legge di conversione, richiedono tutta una serie di altri atti, per esempio i commissari. Beh, per i commissari è prevista tutta una procedura che passa tutta per Palazzo Chigi, cioè il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale c'ha anche altre cose da fare. In più si aggiunge un controllo preventivo della Corte dei Conti sugli atti dei commissari. Lei capisce bene che prima di gennaio dell'anno prossimo questa macchina non parte. A proposito dei commissari, professor Cassese, lei sa che c'è sempre, come dire, il retropensiero che si tratti anche di posti di potere, anche spesso molto ben retribuiti. Sarà la stessa cosa anche per i numerosi commissari che dovranno essere nominati? La figura del commissario, come si sa, in Italia è uno di quei posti che tutti sognano. Guardi, se i commissari veramente risolvessero i problemi, io gli darei una retribuzione che è il quintuplo della retribuzione del Presidente della Repubblica, che oggi viene presa sempre come parametro di tutti i compensi e le retribuzioni in Italia, perché risolverebbero un problema. La questione non è il loro compenso, la questione è un'altra, ed è: siamo sicuri che creare degli organi straordinari accelerino le procedure? Molto spesso gli organi straordinari frenano le procedure. Perché le frenano? Perché, primo, creano la frustrazione dell'amministrazione ordinaria, la quale dice: beh, ma avete creato accanto una corsia di sorpasso, sulla corsia di sorpasso avete creato dei commissari, l'avete semmai pagati più di quelli che pagate me, vadano i commissari, io mi fermo. È la cosa che è accaduta con la cassa per il Mezzogiorno. Secondo, i commissari bisogna sceglierli, e poi bisogna sceglierli bene, perché devono essere delle persone competenti, quindi non è una cosa facile questo. E poi i commissari debbono mettere in piedi delle procedure nuove, perché sono delle procedure nuove quelle create da questo decreto, ripeto, sempre nella versione di cui io quella, sto quella parlando, delle 19 di ieri, professore. Delle ore 19 del 6 di luglio del 2020. Quindi con tutte le riserve di quello che può essere accaduto tra le ore 19 e le ore 4 e 10 di questa notte. Lo sapremo in conferenza stampa questa mattina, dovrebbe esserci appunto la conferenza stampa quest'oggi. Quello sicuramente. No, guardi, lei non lo saprà, perché la conferenza stampa sarà un'altra passerella con dei bei discorsi in cui si dirà che tutto è stato semplificato e che domani l'Italia diventa semplice. La verità. Senta, professore, ci dice in breve le tre cose che lei farebbe subito per semplificare. Perché secondo me questa è l'impostazione sbagliata. La semplificazione di un organismo farraginoso, preterioristico come l'amministrazione italiana, che ha le braccia, le mani legate e anche le dita legate, non le braccia soltanto, ma le dita legate, e che c'ha sulle sue spalle controlli preventivi, leggi che determinano anche i singoli passaggi di ogni decisione. La semplificazione di un organismo così complicato non si fa indicando tre punti. Una metafora che mi piace è: secondo lei qual è il modo più razionale per incendiare un bosco molto grosso? Secondo me il modo migliore, il modo più efficiente, se uno vuole incendiare un bosco, è di appiccare il fuoco da più parti, va bene? Allora, in questo caso, poiché questo è un bosco molto vasto e bisogna, come dire, bruciarlo tutto, sto adoperando una metafora che potrà non piacere. Per carità, però è chiaro il concetto è chiaro, professore. Allora, bisogna partire non da tre punti, ma da 300 punti. E partire da 300 punti sapendo che dietro ad ogni punto ci sono delle resistenze, perché la Corte dei Conti resisterà perché vuole mantenere i propri poteri, l'ANAC resisterà perché vuole mantenere i propri poteri, e il Ministero dell'Ambiente resisterà perché vuole mantenere i suoi poteri. Molti di questi poteri hanno un loro fondamento razionale, la metà di questi non hanno un fondamento razionale. Quindi, professore, le posso chiedere però se considera invece una vera semplificazione il fatto che l'articolo 15 del decreto semplificazioni solleva il funzionario pubblico dalla responsabilità di danno erariale se l'azione non è dolosa? Quindi ci sarà la richiesta della prova del dolo per dimostrare la volontà di un evento dannoso, e questo dovrebbe semplificare l'annosissimo provvedimento del funzionario che non firma documenti per non essere poi considerato responsabile. Non ho dubbi sul fatto che questo sia un fatto positivo, lo stiamo predicando da tanti anni, e la domanda è: questo toglie un peso sull'attività del funzionario, cioè elimina un incentivo a non fare. La domanda è: una volta che si è eliminato l'incentivo a non fare, lei ha tolto il peso dalle spalle di un corridore. La domanda successiva: ma il corridore correrà? Chi le assicura che il corridore correrà a quel punto lì? Gli ha solamente tolto un peso, capisce? Cioè, è solo una delle cose, è per così dire un prerequisito, poi successivamente deve assicurarsi, primo, che il corridore abbia gambe robuste per correre, secondo, che il suo sentiero non sia pieno di bombe che scoppino e che lo fermino al passaggio successivo, e terzo, che abbia degli incentivi per correre, cioè che abbia delle motivazioni. Chi si preoccupa delle motivazioni della pubblica amministrazione? Una buona motivazione sarebbe fargli capire che se non corre il suo posto di lavoro probabilmente sarà a rischio, ma non perché nella pubblica amministrazione si possa licenziare, semplicemente perché il paese va a rotoli. Secondo lei questo è un argomento che potrebbe fare breccia nella testa di tanti che non l'hanno ancora capito? Io penso che un argomento potrebbe fare più breccia di questo. Evitare che membri del governo insultino quotidianamente la pubblica amministrazione affermando dobbiamo tagliare la burocrazia, dobbiamo fare a meno della burocrazia. Lei come si sentirebbe se il suo capo le dicesse tutti i giorni che sarebbe meglio fare a meno di lei? No, dico lei. Nell'editoria sta capitando, eh? Nell'editoria, professore, sta capitando. Sì. Costi da battere, ma nell'editoria, cioè, sono frequenti. Guardi, c'è un bellissimo brano di Francesco Saverio Nitti, scritto un secolo fa, in cui Nitti dice: un funzionario, un ministro non dovrebbe mai attaccare i suoi dipendenti, perché questo è la dimostrazione in realtà della sua incapacità. Se lei ha la pazienza di attendere un secondo, glielo leggo, perché è una cosa molto, molto istintiva. Io ho visto che la cita oggi, professore, nella sua intervista sul Foglio. Se riesco a recuperare il foglio. Io la stavo cercando anch'io, quell'intervista. Sì, comunque è chiaro, il concetto è chiaro, no? Cioè, l'accusa sui burocrati è un modo per scaricare la responsabilità della propria incapacità. È questo quello che dice Nitti, sostanzialmente, in questo scritto che lei dice agli ospiti. I ministri inesperti sono quelli, cito, che hanno per abitudine di far cadere tutte le responsabilità sulla burocrazia e di dire che gli impiegati non valgono nulla, e così danno prova della loro incapacità, cioè di non saper utilizzare gli uomini secondo le loro attitudini. E direi che con questa chiudiamo. La ringraziamo, professor Sabino. Ed è valevole erga omnes, non vale solo per i politici. No, assolutamente, assolutamente. Certo, naturalmente. Grazie Sabino Cassese, docente della School of Government della LUIS, ministro della Funzione Pubblica del governo Ciampi, giudice della Corte Costituzionale, uno dei massimi esperti di questo settore. Una pausa e poi ci ritroviamo e parliamo di Covid e andremo in Veneto. State ascoltando un programma offerto da Il Lavoro Cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Buongiorno a Giorgio Palù, è professore emerito di microbiologia all'Università di Padova, consulente della Regione Veneto, ex presidente della Società Europea di Virologia. Buongiorno Palù, benvenuto. Buongiorno. Eccoci. Maria, prego, inizia tu, vai. Buongiorno professore. Partiamo ovviamente dal caso che ha fatto preoccupare tutti e che è legato ai viaggi all'estero. Dunque in Veneto è scattato l'obbligo per le strutture ospedaliere di presentare denuncia all'autorità giudiziaria se ci sono casi di contagio. E una cosa che colpisce, l'ordinanza rende obbligatorio sottoporre a test di screening con tampone tutti i soggetti che rientrano in Veneto dopo una trasferta di lavoro. Sarà una misura in grado di evitare che si ripetano i casi, il caso di cui è stato protagonista l'imprenditore che si era recato in un viaggio di lavoro nei Balcani? Vede, non è la situazione solo del Veneto, è un po' la situazione generalizzata del paese. Abbiamo molti casi di importazione. Il Veneto su 20, su una ventina ne ha ben 15, quindi ecco, credo che questa sia stata intesa come una misura atta a contrastare, diciamo, l'infezione virale. Sappiamo benissimo che anche se in Europa la curva è in fase discendente, però c'è sempre la possibilità che il virus rientri da altre parti del mondo, o come sa la globalizzazione di merci e uomini è tale che i passaggi avvengono da un continente all'altro nel giro di poche ore, quindi credo che questa possa essere una misura per contrastare questa nuova emergenza. E questo è un punto. Mi aiuta a capire una cosa, professore. Oggi c'è un pezzo che ho trovato sul quotidiano La Repubblica che mi ha colpito abbastanza, il quale racconta che un caso su tre ormai di quelli che vengono scoperti, non so, magari ci può dire se anche in Veneto avviene la stessa cosa, ormai sono casi silenziosi, addirittura scoperti per caso, ossia persone che vanno in ospedale per un altro motivo, gli si fa il sierologico e poi il tampone perché non possono entrare in corsia se nel caso siano malati, e si scopre che sono positivi. Mi conferma che avete questa tendenza anche là da voi oppure no? E che cosa significa? E cosa significa soprattutto? Ecco, dare un significato biologico, virologico, questi riscontri, ecco, ci fa intuire che la situazione, ecco, siamo nella fase discendente della curva, come dicevo, il virus circola meno, anche se vediamo quando cala l'attenzione, soprattutto con gli affollamenti, gli assembramenti serali, la possibilità che i pazienti diffondano l'infezione aumenta, ecco, sicuramente c'è una circolazione ridotta, e quando il virus circola meno ci sono anche, diciamo, concentrazioni virali più basse, perché il virus ha maggior difficoltà, diciamo, a estendersi, a contagiare, di passare da un individuo infettato ad un altro. Quindi la carica virale è elemento fondamentale in tutte le malattie trasmissibili per indicare il grado di contagiosità. Quindi non solo il grado di contagiosità, ma se noi abbiamo a che fare con una carica virale ridotta, ovviamente la nostra risposta immunitaria, l'immunità innata, quella adattativa, i sistemi di difesa anche di tipo non specifici prevalgono più facilmente sul virus. Quindi questo avviene per tutte le malattie diffusibili, sia quelle batteriche, quelle virali, quelle protozoarie. Sì, però professore, mi scusi, la domanda era più, è chiaro che lei è un virologo e per carità non voglio farla scendere in un'altra disciplina, però insomma un'idea dell'epidemiologia l'avrà, e le chiedo che cosa rappresenta dal punto di vista epidemiologico il fatto che abbiamo così tanti casi silenziosi, cioè un elemento che può essere di preoccupazione o invece un elemento di conforto, perché vuol dire che il virus è molto più diffuso di quanto noi non crediamo e in realtà si manifesta in molte persone in maniera molto lieve o addirittura asintomatica. Lei mi chiedeva la carica tra tamponi positivi e soggetti asintomatici, quindi io ho cercato di darle una risposta virologica. Ecco, che ci siano soggetti asintomatici lo sappiamo benissimo, quindi le infezioni gravi o severe, quelle che mettono a rischio anche la sopravvivenza, vanno dal 4 al 15%. Quindi il resto lo dobbiamo dare a una grossa fetta di infezione asintomatica, questo fin dall'esordio in Cina. Ecco, quindi in tutte le pubblicazioni era riportato che dal 60 all'80% dei casi erano lievi o addirittura asintomatici. E questo però, come diceva giustamente, ha anche un altro significato, che il virus circola. Quindi anche se magari a basso livello, clinicamente in forme, diciamo, non rapidamente identificabili, questo segnala che il virus circola e quindi dobbiamo porre attenzione. Il virus circola e infatti ci sono dei focolai che si riaccendono. Il virus circola anche perché le persone hanno ripreso a viaggiare, no? Per esempio, giustamente, secondo me, ieri all'aeroporto di Fiumicino, a Leonardo da Vinci, il Terminal 5 è stato svuotato, di fatto trasformato in un ospedale da campo, perché 24 medici dello Spallanzani hanno fatto lo screening sui passeggeri in arrivo dal Bangladesh, perché c'è stato un focolaio proprio legato nei giorni scorsi a cittadini provenienti dal Bangladesh che avevano dimostrato il contagio. Ora le chiedo, andiamo incontro a un periodo comunque di viaggi, di vacanze, basta il controllo in aeroporto, e poi appunto quello che è stato fatto ieri è un controllo eccezionale, perché trasformare un terminal in una specie di astanteria non è cosa che si possa fare per tutti. In altri aeroporti, per esempio all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, quando arrivi devi consegnare un documento nel quale dai tutte le tue informazioni, così che tu possa essere contattato se qualcuno in aereo con te si rivela contagiato. Però insomma sarà un problema con i viaggi che si sono riaperti. Sicuramente, non dipende da me, non sono un decisore, io posso solo commentare quello che vedo e esprimere la mia opinione. Ecco, sappiamo che dal Dipartimento di Prevenzione del Ministero ci sta dicendo: beh, facciamo adesso in questa fase discendente della curva i tamponi solo ai sintomatici, e le regioni che hanno a disponibilità i loro contatti dei positivi e dei sintomatici. Io dico che è importante mantenere il controllo sia serologico che tamponi sulle persone più esposte, quindi persone sanitarie. Infatti non si è smesso in Veneto di controllare questo, e ovviamente con la circolazione. Direi che qui però una volta andrebbero armonizzate queste decisioni, cioè dovrebbe esprimersi non solo il Ministero, ma direi anche a livello europeo, quindi capire su quali o da quali paesi noi dobbiamo controllare e mantenere queste misure di cautela e anche di controllo. Ecco, quindi queste dovrebbero essere indicazioni che dovrebbero venirci. Ma diciamo, mi fa capire anche una cosa, professore. Prego. Da noi l'app Immuni, quella che poi dovrebbe come dire, facilitare il tracciamento, è stata scaricata molto, molto relativamente. In Germania una app simile invece è diffusissima. Secondo lei perché? Perché è stata comunicata male in Italia? Perché c'è più diffidenza da parte degli italiani a come dire, farsi tracciare? Perché in Germania, per esempio, è uno strumento molto utile, considerato molto utile e molto utilizzato dai cittadini. In Corea lo è stato ancora di più, quindi questo fa parte anche del, diciamo, di quelle che sono valutazioni di comportamenti sociali, sono magari tipici dell'italiano, non solo l'app in lui, ma lei guardi anche i test serologici offerti gratuitamente, che fine hanno fatto. Quindi io ho notato che invece molti lavoratori che rientravano in azienda si sottoponevano volentieri al test serologico nel momento in cui è offerto gratuitamente e le persone vengono rintracciate al telefono. Ecco, c'è questo individualismo tipicamente italico che porta a rifuggire. Diciamo che c'è anche un altro aspetto. Sì. Ecco, quando si prepara o si vuol fare una proposta, quindi una proposizione da accettare alla popolazione, io credo che bisogna anche adeguare la proposta, quindi con un sistema operativo, cioè controllare che questa proposta effettivamente abbia la possibilità di essere accolta e quindi essere resa efficace. Quindi noi arriviamo fino a un certo punto, poi oltre non ci andiamo. No, non ci si può andare. Professore, si faccia fare un'ultima domanda. Si parla, il Comitato Tecnico Scientifico, quello nazionale, ha detto che prima dell'inizio della scuola, nelle due settimane che precedono l'inizio della scuola, docenti e personale non docente, insomma chi entra negli edifici scolastici, dovrà fare test sierologico e a seguire chi venga trovato positivo, dovrà fare il tampone. A suo giudizio, il sistema è in grado di reggere 2 milioni di sierologici più un numero imprecisato di tamponi nel giro di due settimane? Io penso francamente di sì, perché il test serologico, io spero che ci si riferisca al test con puntura venosa, quindi il prelievo di sangue, non la puntura del dito, sono test molto più affidabili soprattutto per la specificità e sensibilità e oltre validati ormai da indagini in corso. Il test serologico si può effettuare su larga scala, quindi se ne fanno decine di migliaia in poche ore, quindi credo che il test serologico non sia il problema casomai è una massa di tamponi, ma non credo, perché ci siamo abituati anche a svolgere queste attività. Io credo che questo si possa affrontare. Se mi fa dire due cose sull'epidemiologia, visto che mi ha stimolato, ecco, io penso che guardare l'epidemiologia sui valori di RT in una fase dove l'RT era già in discesa sotto 1 abbia poco significato, soprattutto se questo parametro viene misurato in 7-10 giorni come si fa attualmente. Quindi ha più significato guardare i singoli focolai e vedere l'andamento dei casi incidenti in una spettro di tempo un po' più allungato per capire come sta andando quella curva, perché su questi focolai che noi possiamo incidere con test serologici, con contact tracing, con tamponi, e qui, e ancora una volta lo dico, nella attuabilità di procedure operative che riescono subito a spegnere il focolaio, quindi rintracciando i contatti dei contatti, che noi possiamo affrontare, ecco, questa fase della pandemia. La ringraziamo, quindi l'app forse servirebbe anche. Servirebbe tantissimo. Sappia che alcune regioni queste app le stanno già sviluppando per loro conto, ecco, quindi dobbiamo, poi sarà garante a vedere se violano o meno le norme sulla privacy, no? Sono molto importanti. Dobbiamo chiudere veramente. Grazie Giorgio Palù, ex presidente della Società Europea di Virologia, professore emerito di microbiologia all'Università di Padova, consulente del Veneto. Maria, ci risentiamo domani alle 8:20. A domani Simone, ciao a tutti. Ciao. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.